Conclusione. Maria sì della creazione a Dio. Senza fede nella creazione, senza fede nel progetto di Dio, la religione si riduce a sentimento. Invece è essenziale il concetto di verità e quindi il riferimento all'essere. Ma non basta una metafisica fondata su un logos come quello greco, segnato dalla necessità. Occorre invece un'ontologia fondata sul dono e sull'amore, quindi un'ontologia che sappia rendere ragione del valore della persona e delle relazioni. Solo Dio conosce la vera profondità del creato. La verità è celata nel mistero. Dio ha creato dal nulla e solo Lui sa chi siamo noi e cos'è il mondo, poiché la creazione è interamente opera sua, interamente opus Dei. Per questo solo nella fede si può cogliere il reale, solo nel rapporto con il Creatore, che è Padre, conosciamo veramente noi stessi e il mondo. Essere contemplativi, guardare il mondo a partire dalla relazione con la Trinità, vuol dire allora essere veramente realisti. Si tratta di ciò che ha espresso con forza poetica Karol Wojtyła. O maestri dell'Ellade, vi narro un grande miracolo. Non importa vegliare sull'essere che scorre via tra le dita. C'è la bellezza reale celata sotto il sangue vivo. Canto dell'Io Nascosto 1.13. Nell'osservare il reale con gli occhi della fede si scopre che ciò che permane, ciò che veramente è, non sono la materia o qualsiasi ente creato o idea ad esso connessa, ma il miracoloso dono di sé che il Figlio realizza nel tempo. Essenziale è la dimensione storica. L'inizio accade poiché esiste un principio assoluto che fonda e costituisce la storia e il nostro essere. Per capire di cosa si tratta bisogna tornare adesso. La teologia della creazione è dunque teologia dell'inizio e teologia della storia. Ma l'amore e il dono divini che costituiscono questo inizio rimandano ad un fine, ad un compimento che l'uomo deve perseguire liberamente, e ciò implica la possibilità dell'errore. Il Creatore rischia, ma lo fa perché è padre, perché vuole dei figli e non dei servi, ai quali invia il Figlio come Redentore. Il principio del tempo con cui inizia la Genesi è in verità il principio eterno del prologo di Giovanni. Dio è creatore perché è padre. Il senso del mondo è allora il Figlio. La storia non è determinata e la materia non è eterna come nella visione pagana, ma l'uomo è chiamato ad essere gloria di Dio con la sua libertà e nella relazione con Lui. Ha scritto Ireneo contro gli gnostici: l'uomo vivente è gloria di Dio. Vita dell'uomo è la visione di Dio. Adversus Heres 4, 25-7, Sacrosantum Concilium 100-640-642. Il logos dell'uomo trova così il suo senso e il senso del mondo creato nel logos incarnato, nel creatore, che si fa creatura per riparare e restituire quel dono che l'uomo ha ferito con il peccato. Il perfetto e assoluto essere da ed essere per, che secondo Josef Ratzinger costituisce la persona divina del Figlio, si immerge in modo irrevocabile nella creazione, fino a farsi annientare dalla morte. È proprio in questa storia divina e umana il vero valore e l'autentico senso della creazione sono rivelati in pienezza. Se il senso del mondo è il Figlio, se Dio ha creato perché è Padre, allora l'essere dell'uomo e attraverso di lui l'essere di tutto il cosmo è totalmente dal Padre, è totalmente per il Padre. La dimensione fondante del creato è dunque la relazione di filiazione. Per questo libertà, dono e amore ne sono le chiavi di comprensione più profonde. In questo modo si possono superare sia i pericoli del fideismo che quelli del razionalismo, perché la fede non spinge lontano dalla creazione e dal logos che la regge, ma trascina piuttosto dentro di essa, nella struttura ontologica più profonda della realtà creata, aprendo il pensiero a un logos più grande. Si tratta di riconoscere che la logica che regge il mondo non è un pensiero al finito, ma un pensiero che sorge da un dono infinito, da una sorgente che è il Padre stesso. Tale comprensione della creazione permette di sviluppare una grande capacità di dialogo con i nostri contemporanei, con le altre religioni e con l'ambito scientifico e professionale. Come ha scritto Giovanni Paolo II, dopo che Dio espresse a Giobbe la sua divina potenza creatrice, Giobbe 38:41, questi rispose al Signore e disse: «Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile a te. Io ti conosco per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono». Giobbe 42:5. Possa la nostra riflessione sulla creazione condurci alla scoperta che nell'atto di fondazione del mondo e dell'uomo Dio ha seminato la prima universale testimonianza del suo amore potente, la prima profezia della storia della salvezza. 8 gennaio 1986. E questa profezia trova la sua perfetta realizzazione in Maria, figlia e madre di Dio. Lei, che come Giobbe sa che nulla è impossibile a Dio, Luca 1:37, è tutta da Dio e tutta per Dio. In questo realizza la perfezione della creazione, tanto da esserne regina, regina del mondo. Maria è pura relazione al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, avendo accolto nel suo seno e in tutta la sua vita, all'ombra dello Spirito Santo stesso, colui che è puro essere dal Padre ed essere per il Padre. Ai piedi della croce, lei ridona perfettamente il dono, affidando a Dio quel Figlio che da lui aveva ricevuto. Il sì dell'Annunciazione sboccia nel sì del Calvario, che conduce alla risurrezione, alla vittoria finale sul demonio e sulla morte, ridando vita al creato. Come la madre dei sette figli Maccabei, in 2 Maccabei 7, così Maria sa che colui che ha donato ridonerà, e per questo lei ridona a lui. Lei si fida di Dio perché crede che egli è Dio perché è creatore, ed è creatore perché è padre, padre di quel figlio nato a Betlemme da lei, ma eternamente generato da lui. Lei, in quanto pura relazione al Dio uno e trino, è dunque la creatura perfetta, ma non lo è meramente nel senso di un modello irraggiungibile, di un archetipo lontano, perché il suo sì al Padre l'ha resa madre di ogni uomo, madre che cura e che pensa a ciascuno, soccorrendo e riparando quanto non riusciamo a fare noi figli da soli. In qualche modo lei accoglie in sé anche tutta la creazione, rispondendo di sì al Creatore a nome di tutti. Ha scritto Joseph Ratzinger in Maria Chiesa Nascente: «Maria si presenta nel suo credente essere di fronte all'appello di Dio come rappresentante della creazione da lui interpellata e della libertà della creatura che nell'amore non svanisce ma si realizza». Milano 1998, pagina 23. Maria, nel suo essere donna, nel suo corpo, risponde per noi, realizza quanto non riusciamo a fare. È lei il sì della creazione a Dio, il nostro sì. La sua perfezione è dunque nostra, in modo tale che ogni uomo, cioè ogni figlio, ha in lei un cammino sicuro per realizzare il suo essere creatura come figlio nel Figlio del Creatore perché padre.